vieni a gallare i ricordi nel mezzo dell'oceano. Spunti come un ramo secco nel verde immenso a maggio. Nelle cose che ho preso e che ho cambiato ci sei e ci resterai. Un ti amo salvato andrebbe invece sempre cancellato, così come il tuo bel nome che ancora suona forte. Via regali, via dettagli, cornici solo vuote. Se bastasse davvero tutto questo sarebbe tutto a posto, ma ho paura che a questo giro invece dimenticarti è poco. Dimenticarti sarà per l'altra vita, questa è già piena di corsi e di ricorsi, di capelli tuoi tanti che ho raccolto in casa e per la strada, di promesse che ho mantenuto solo quando era troppo tardi. La tua voce è un suono lungo come una nave in porto, l'espressione del tuo volto è chiara ma non troppo. Questa lunga convalescenza spero mi renderà più forte, ma se adesso qualcosa mi toccasse troverebbe il vuoto. Dimenticarti è poco e non ha senso, niente mi sposta dal punto che mi hai dato. Sono troppe le cose a cui di colpo hai tolto luce e fiato. Sono pezzi di vita che a fatica avevo costruito. Grazie di tutto, eternamente grazie. Meglio aver male che essere un fantasma. Grazie per i tuoi giorni giovani che a me hai dedicato. Grazie per i tuoi fronte contro fronte. Dimenticarti è poco, dimenticarti è poco.